significativa, molto profonda della redenzione. Ho visto che è arrivato qualche bel commento mi ha detto, ha commentato, dice: finalmente ho capito perché nostro Signore Gesù Cristo è morto in croce, perché mica tutti lo hanno chiaro, ed è una delle cose più importanti che dobbiamo avere chiare, perché la gratitudine per questo deve essere più che infinita nei confronti di nostro Signore. Oggi concluderemo, se Dio vuole, il tema della morte, siamo alla quinta puntata e forse cominceremo anche a, diciamo, introdurre un po' il secondo nuovissimo, che è appunto quello del giudizio. Vediamo quanto tempo ci porta via questo ultimo step. E l'ultimo step è la visione cristiana della morte, l'abbiamo già introdotto la volta scorsa, cioè la morte come il ritorno in patria. Cioè, noi dovremmo stare a aspettare il giorno della morte, come dire, quasi torna a casa, casa mia, casa nostra. Mi viene in mente, facciamo una parentesi un po' fantasy poetica, chi ha visto lo Hobbit, la serie dello Hobbit, quando Thorin, scudo di quercia, ecco, vede la montagna, ecco, la montagna depredata, posseduta dal drago cattivo, dice, alza gli occhi e dice: casa nostra, casa nostra, casa nostra. C'è una bellissima canzone popolare mariana che andrò a vederla un dì nel cielo, patria mia. Se perdiamo questa dimensione, amici cari, cioè, io ho detto e ridetto e continuo a dire, a ridire e a ridire, a ridire. Un cristiano che ha paura della morte o non è un buon cristiano, c'è qualche problema. Perché la morte, intesa in un certo senso, noi siamo amanti della vita, d'accordo? Non siamo mortuari, non siamo becchini, né macabri o dark, capito? Tra poco cominceranno le consuete pantomime macabre e tra l'altro pure un bel po' sataniche, però vabbè, non parliamo di queste cose in questo contesto, dato che siamo nel mese di ottobre, che come ben sappiamo, come tutti sappiamo, finisce il 31, ecco, quindi con rituali sempre più seguiti, che sono anche il fatto che siano sempre più seguiti, sono un altro segno dei brutti tempi in cui stiamo vivendo, dei tempi difficili che stiamo vivendo. Ma per noi la morte non è la morte, per noi la morte è la vita. Cioè, un cristiano dovrebbe vivere una vita in cui sospira, cioè, noi siamo qui sulla terra, ma la nostra patria è in cielo. Cioè, stiamo qui sulla terra, per carità, vivendo in comunione con Dio, gustando anche le tante cose belle che il Signore sono tante, ci fa vivere in questa terra, in questo mondo, chi vive in comunione con Lui, nella sua divina volontà, conosce tante cose bellissime, conosce tante delizie, tante meraviglie, però è sempre poca roba in confronto a quello che ci attende, poca roba, pochissima roba. Dato che facciamo sempre ping pong tra i cicli di catechesi, basta sentirsi un po' di tenera amata, ecco, per avere una pallida idea di quello che in parte ci aspetta solo come gloria occidentale in paradiso. È solo una mancanza di conoscenza, accompagnata quasi sempre da una latitanza di fede, che può causare in un battezzato la paura o il terrore della morte. Ciò che io ho sempre, come dire, profondamente biasimato, mi ha profondamente addolorato, e da questo mi sono chiamato completamente fuori negli ultimi tempi che abbiamo vissuto. Ecco, ovviamente chi può capire capisca, ma non è che ci vuole una grandissima scienza infusa. È il terrore della morte. La convinzione pervasiva che diffusa, universale, che arriva la morte. Orrore, dobbiamo salvarci dalla morte. Se ci fosse un trilionesimo, diciamo così, dai, facciamo un trilionesimo dello zelo manifestato in questi tempi per salvarsi dalla morte, tra l'altro con mezzi che, vabbè, discutibili, se un trilionesimo di quello zelo fosse trasferito nella attenzione a salvarsi dalla morte eterna, che è l'unico problema, non la morte corporale, alla morte eterna, e avremmo probabilmente svoltato la grande. Comunque, vabbè, evito di perdermi in ulteriori chiacchiere introduttorie velatamente polemiche, solo velatamente però, e andiamo a affrontare il nostro tema di oggi: la morte come ritorno in patria. Andiamo a casa nostra. Qui già stiamo a casa nostra, e la casa nostra è la Santa Chiesa di Cristo, casa nostra, non ci sono altre case, ma ridotta purtroppo in crisi, purtroppo. Però vado ad esempio, attenzione, la chiesa terrena è travagliata, ma la chiesa di Cristo c'ha adesso tre dimensioni. Ci stanno i santi, noi facciamo parte della Chiesa, noi stiamo in comunione con i santi che stanno in cielo, siamo in comunione con Padre Pio, con Sant'Alfonso, i santi di cui siete devoti, io dico i miei, i santi, San Luigi Maria Grignon, da Monfort, Santa Teresina, Santa Gemma, tutti quelli che volete. Noi siamo in comunione, noi stiamo a casa nostra, noi siamo membri della Chiesa cattolica, i cui membri insigni che hanno già superato la prova stanno in cielo, sono amici nostri. Amici nostri, siamo concittadini dei santi e familiari di Dio, dice il grande apostolo. Prima cosa. Poi ci sono le anime sante del purgatorio, lo vedremo tra un mesetto, qui ne parleremo durante il ciclo dei... Sono comunque anime sante. Si stanno purificando. E poi ci siamo noi. Sì, nel seno della Chiesa stanno tanti peccatori. Sì, stanno tanti peccatori. Tra i figli della Chiesa, la Chiesa non è peccatrice. I figli della Chiesa in questo mondo possono essere peccatori. Poi bisogna vedere se sono figli della Chiesa veri, perché i peccatori impenitenti, anche se sono battezzati, non fanno parte della Chiesa, sono corpi estranei, noi non possiamo saperlo in questo mondo, perché qualunque grande peccatore prima della morte potrebbe pentirsi, così come qualunque grande apparentemente santo prima della morte potrebbe impazzirsi. Ecco perché qui sulla terra non si danno mai giudizi definitivi. Oh, però dentro la Chiesa non ci stanno soltanto i peccatori, perché quelli che vengono canonizzati un tempo stavano sul pianeta Terra, non è che sono stati canonizzati co così. Quindi anche adesso in giro e anche in questo periodo così travagliato e così duro e così difficile, ricco di tante situazioni estremamente dolorose, estremamente, che fanno piangere lacrime, chi fosse capace anche lacrime di sangue, però in giro ci stanno i santi, stanno qui in giro adesso, che il Signore ce li faccia conoscere, adesso. Perché qui stiamo a casa nostra, anche qui. Certo, qui abbiamo una casa che può essere, come dire, devastata, che può essere occupata, che può essere picconata, può essere malridotta, no? Quello che disse San Francesco, il Signore a San Francesco: vai e ripara la mia casa perché va in rovina. Sulla terra, la dimensione terrena della Chiesa purtroppo può essere rovinata, può essere mezza mandata in rovina, ma noi non dobbiamo guardare a questa. Anche il problema del tempo, cioè noi stiamo in una dimensione storica, siamo in un arco di tempo temporale, ma la Chiesa ha conosciuto tempi di gloria. Ah, ma sono cose della Chiesa del XIII secolo, l'anno d'oro, era una cosa meravigliosa. E anche momenti belli, pur se travagliati, grandi pontificati, grandi santi, grandi scuole di preghiera, di spiritualità. Quindi. Bene, quindi con questa iniezione, ecco, spero di fiducia, perché non è che i problemi non ci sono, per carità, io sono il primo a esserne, ahimè, più che consapevole, però dobbiamo sempre rimanere dentro questo arco per non fare pazzie, eh? E per non fare sciocchezze, ma neanche pensarci a pazzie o a sciocchezze, perché noi attendiamo di tornare a casa nostra, ma già siamo a casa nostra. E la casa nostra non si abbandona, non si lascia, non si può e non si deve lasciare, mai per nessun motivo. Allora, andiamo a vedere anzitutto un paio di testi sul tema di oggi. E guardate il grande San Paolo, guardate, no? Filippesi 1, 21, 23. Questo dovrebbe essere, attenzione, mo lo leggo, ma chiunque leggendo queste cose dovrebbe poterle farle sue ad litteram sine glossa, diceva San Francesco d'Assisi. Scrive San Paolo: per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Un guadagno, è proprio un guadagno, un guadagno, un guadagno. Un guadagno, un kerdos in greco, ok? Lucrum in latino, okay? Ancora più bello. Poi aggiunge, quindi vivere è Cristo, morire un guadagno, se io muoio ci guadagno. Che significa? Quando noi guadagniamo andiamo, vuol dire che andiamo a stare meglio, no? Ci abbiamo più risorse, ci abbiamo più beni. Avendo più soldi possiamo toglierci più sfizi, possiamo godere di più i beni temporali, o no? Morire è un guadagno. Però, aggiunge l'Apostolo, se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. È troppo forte. Non so cosa debba scegliere. Ci sono messo alle strette, infatti, tra queste due cose, versetto 23. Da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Pollo mallon creison, eh? Pollo mallon creison in greco. Il desiderio di essere sciolto per essere con Cristo. Essere sciolto, analiusai, per essere con Cristo. Dall'altra parte è più necessario per voi che rimanga nella carne. Capiamo questo conflitto, no? Parafrasando in maniera buona per ciascuno di noi, io sono un prete, posso farlo quasi uguale, insomma, nel senso che io devo dire al Signore, a me se non concesso che io non faccia solo danni alle anime, quindi sarebbe meglio partirsene subito, il che tutto da dimostrare che non sia. Ma se tu dovessi servirti di qualche cosa, non so come fai di me per fare qualcosa di bene, se tu mi dici, oh, se tu resti in altri 30 anni sul pianeta Terra, attraverso di te salvo un'anima. Rimaniamo. E che dobbiamo fare? Un'anima c'ha un valore inestimabile. Quindi, pazienza. Rimandiamo il super godimento. La stessa cosa vale per noi, cioè noi dobbiamo desiderare fino a quando devo stare sul pianeta Terra, fino a quando non avrò compiuto fino alla fine la mia missione. Quello che disse Gesù sulla croce, l'abbiamo visto la volta scorsa, forse, consummatum est. Disse per adempiere la scrittura, ci mancava solo una cosa. Ha fatto pure l'ultima, fatta quella, ah, abbiamo finito. Mo' ci andiamo a riposare. Quindi, sui nostri desideri di morire il più presto possibile, dobbiamo temperarli. Primo, sul fatto che dobbiamo fare fino in fondo la nostra missione. E secondo, amici miei, suggerimento paterno, poi avremo modo di riprenderlo più avanti con altri nuovissimi. calm down, nel senso che non abbiamo troppa fretta, perché se si muore troppo presto senza aver fatto abbastanza penitenza, si fa tanto purgatorio. Quindi io vi invito e vi esorto, stasera ho fatto una predica sulla libertà. Queste sono cose del tutto volontarie, non è che, cioè, tu sei obbligato a fare la penitenza sacramentale che ti dà il confessore quando devi confessare e basta. Poi, ovviamente, i digiuni e le penitenze imposte dalla legge della Chiesa, la carne e il venerdì, solo 2 digiuni l'anno, insomma, che non è che uno si cambia la camicia, che c'ha queste grandi sofferenze. Tutto il resto dipende da te. Cosa vuoi offrire al Signore? Quanto ti senti che tu debba, Padre Pio diceva, pagare? E se lo diceva Padre Pio si può dire, eh? Come espiazione dei tuoi peccati. Quindi, perché va bene non vedere l'ora di arrivarci, ma dobbiamo arrivarci coi conti pagati, se no si pagano dopo, eh? Davanti a Dio non ci sono parzialità di persone. Dio non fa parzialità di persone. Non ci sono accettazioni, non ci sono figli dell'oca bianca. Altro brano significativo sul tema. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo quinto. Just a moment. Allora. Versetto 6. Così dunque, siamo sempre pieni di fiducia. Bellissima. E sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontano dal Signore, esilio, camminiamo nella fede non ancora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Bellissimo. Qui San Paolo gioca. Sul termine esilio. Il verbo greco è ekdemeo, essere in esilio. Ek, no, ekdemos, ma ek in latino è domus, no? Quindi lontano dalla casa. Allora, anzitutto, siamo pieni di fiducia. Noi camminiamo pieni di fiducia perché? Perché nostro Signore ci vuole con lui in cielo, morto in croce per noi. Siamo soltanto noi che possiamo chiuderci a questa prospettiva. Certo, come vedremo, non è una cosa così tanto difficile, ahimè, però siamo pieni di fiducia. Ora, siamo anche consapevoli che finché abitiamo nel corpo, siamo in esilio e lontani dal Signore. In che senso? Cioè, noi attraverso la fede, attraverso la conoscenza, attraverso l'amore, attraverso i sacramenti possiamo molto avvicinarsi al Signore, diventare suoi intimi anche in questo mondo, però è un'intimità sempre vissuta nella fede. Nella fede. Dicevo nella meditazione di questa mattina, se tu impari a stare davanti al Santissimo Sacramento, vivrai delle cose meravigliose, bellissime, ma sempre velate dalla fede. Perché tu Gesù nell'Eucaristia non lo vedi. Quindi non ne gusti la bellezza neanche della sua santissima umanità, vedi sempre i veli eucaristici. Quindi poi continua ancora, siamo pieni di fiducia, siamo pieni di fiducia, pieni di fiducia. E preferiamo, vedete, qui gioco sul termine esilio, io mi trovo in esilio nel corpo e preferisco andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. E bellissime parole di quel meravigliosissimo, spettacolare Salmo 84. Non si dice in italiano meravigliosissimo, è un neologismo per amplificare la bellezza straordinaria di questo Salmo, no? Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Vedete che belle, l'anima mia languisce e brama agli atri del Signore, languisce e brama. Pensiamo a questi due termini. languire e bramare. Cioè non c'è, non pensa altro, io non vedo l'ora. Noi dovremmo stare sempre in questo, in questo, in questo, in questa attitudine. Non vedo l'ora. Cioè, famo così. Se il nostro Signore dicesse, guarda, stai a posto, debiti pagati e missione finita. Se te lo venisse a dire, stasera se muore, ma le fai le capriole oppure no? Ma le capriole, ma questa persona è stata proprio da imbriacasse. Cioè, vai a suonare le campane a festa, va a fare 48. Solo ti dice così, eh? Missione finita e conti pagati, ok? Ma se ti dice missione finita e conti pagati, ma ragazzi, qui salutiamo a tutti, preghiamo per voi, ma io me ne vado molto volentieri. Questo dovrebbe essere. Cioè, io vi dico che conosco fedeli che se sentono queste cose scandalizzano. Ma che dice questo qua? Ma che vuole morire? Lo dico io. Ma che matto? Vuole, ma che vuole morire? Ma che matto? Assicuro. Allora, il catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, chiosando un po' il primo di questi brani, andando anche a ad abbracciarne un altro, che ci diamo soltanto in questa versione breve, scrive così: grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. Per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno, cita il brano che abbiamo letto della lettera ai Filippesi. Certa è questa parola, se moriamo, attenzione, con Lui vivremo anche con Lui. Qui c'è secondo Timoteo 2,11. Attenzione, diciamo due parole. Se moriamo con Lui, la lettura che ho letto prima si legge ai funerali, andare in esilio dal corpo, no? Ma attenzione, questo non è vero per tutti, eh. Questo non è vero per tutti. Noi dobbiamo morire con Lui. Morire con Lui, che significa? Significa essere in grazia. Significa morire da suo amico. Non morire con una persona che sono 50 anni che mette piede in chiesa e ci rientra orizzontale. Io non voglio certamente anticipare i giudizi dell'Altissimo che ci pensa Lui a giudicare i Suoi figli e a farlo in maniera perfettissima e ineccepibile. Noi non possiamo sapere cosa c'è nel cuore degli uomini, per cui non è automatico, certo, assoluto al 100% che una persona che 50 anni ha messo piede in chiesa e ci ritorna orizzontale stia all'inferno. Beh, però se la si definisce questa cosa probabile, fermo restando l'imponderabile, perché noi comunque dobbiamo fare delle valutazioni che si attengano ai fatti oggettivi. Non possiamo spingerci a sostituirci a Dio nel giudicare le persone, questo no, ma di per sé un comportamento completamente indifferente, sprezzante verso Dio e i sacramenti, certamente non è una cosa gradita al cielo e che ti porta in paradiso, a meno che non ci siano tante circostanze che soltanto Dio possa conoscere in qualche modo diminuiscano, attenuino, scusate, le responsabilità soggettive di chi ha posto in essere comportamenti del genere. Quindi se moriamo con Lui, vivremo con Lui, ma se moriamo senza di Lui, vivremo senza di Lui. Un altro Vangelo che si legge ai funerali, che è quella parte del discorso di addio, dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Prima dice, guardate, non si turbate il vostro cuore. Io vado a prepararvi un posto. Quando vi avrò preparato un posto, tornerò e vi prenderò con me. Tommaso dice, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io sono la via. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vuoi venire dove io ti precedo, cioè in cielo, devi vivere in comunione con me, devi passare attraverso di me. Ora riprendo la citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 1010, non mi ricordo se l'ho detto oppure no. Cioè, qui sta la novità essenziale della morte cristiana. Mediante il battesimo, Il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo per vivere una vita nuova. Se noi moriamo, vedete cosa dice il catechismo, nella grazia di Cristo, la morte fisica consuma questo morire con Cristo che già si è realizzato sacramentalmente nel sacramento del battesimo e compie così la nostra incorporazione a Lui nel suo atto redentore. Ma la parola chiave è morire nella grazia di Cristo. Ecco perché non so se ne ho già parlato nelle catechesi precedenti, dato che io purtroppo con tutte le cose che dico e che faccio poi mi scordo, credo di sì però. È un crimine contro la nostra anima quando siamo noi responsabili, quindi andare a morire senza preparazione, remota e prossima. San Paolo scrive: io ogni giorno affronto la morte. Noi ogni sera quando andiamo a dormire dobbiamo dirci: ma se il Signore mi chiamasse oggi, che gli vado a raccontare? Sono pronto a morire? C'è una preparazione remota. La preparazione remota la facciamo con come viviamo tutti i giorni. E poi c'è la preparazione prossima, facendo tutto quello che dobbiamo fare prima della morte. Confessione possibilmente generale. Possibilmente generale, olio santo, viatico, preghiera di raccomandazione dell'anima, se il Signore ti dà la grazia, che coroncina la divina misericordia per i moribondi, tutto, acchiappare tutto. E attenzione con i nostri cari. Noi non possiamo violentare un nostro familiare, ogni tanto mi fanno le domande oppure mi scrivono le mail, ma che se non vuole i sacramenti non fa niente, può soltanto pregare, puoi proporglielo, ma se non vuole non puoi costringerlo. Però attenzione che c'è stato un sacco di gente che nemmeno glielo dice perché c'ha, credo di averlo detto, c'ha la mentalità che no. Se vede il prete, questo poi pensa che sta per morire. Oppure che il prete lo chiamano, che è una cosa sciagurata, quando quello già non capisce più niente. Quando non capisce più niente, certo che l'olio santo glielo puoi dare, perché l'olio santo si può dare fino a quando una persona è in vita, fino a quando il cuore batte. Ma comunque non, può dargli, non può fare né la confessione né il viatico. E non è la stessa cosa aver avuto queste due. Certo, puoi anche dargli l'indulgenza in articolo mortis, però. Allora, dentro la dinamica della morte come ritorno in patria ci sono degli atteggiamenti molto cristiani con cui affrontare la morte. Ah, non dobbiamo ricordare, anzitutto, come punto primo, che la morte è la soddisfazione estrema del peccato. Noi moriamo perché c'è stato il peccato originale. La morte è stata comminata da Dio ad Adamo, gli fa tutta quanta la doverosa ramanzina, e alla fine tu tornerai polvere perché dalla polvere sei stato tratto. Quello che ci dice Santa Madre Chiesa il mercoledì delle ceneri, in quel tempo in cui la Quaresima è proprio il tempo in cui uno vuole fare esattamente la Quaresima, la Quaresima, devi pensare al giorno della tua morte corporale. Ed è per questo che pensando alla morte corporale si pratica la mortificazione del corpo, dei sensi e delle passioni, cioè di tutte quante quelle cose che ti possono portare alla morte eterna se tu non le tieni mortificate, non le fai morire in questa vita. Si gioca un pochino sul termine morte, no? Quindi la morte è soddisfazione. Quindi un cristiano dice: Signore mio, io muoio come atto d'obbedienza, io merito di morire, mi sta bene. Ce lo siamo mai detti? Mi sta bene affrontare questa umiliazione, perché la morte è comunque un'umiliazione, un travaglio, no? Ma a me mi sta bene, tu non dovevi morire in croce, gliel'abbiamo detto, tu non dovevi morire, sei soltanto tu che non dovevi morire, non io. Io devo morire. E te l'offro volentieri questa cosa, perché tanto quando c'è è niente in confronto a quello che ho fatto. Non riparerai tutti quanti i peccati che ho commesso, sia personalmente, sia quello che come membro della razza umana ho commesso nel mio progenitore, perché c'eravamo anche noi, c'eravamo, eh? Non come responsabili direttamente, evidentemente, ma come contenuti nel nostro capostipite, tutta l'umanità era contenuta. Per questo è uno dei motivi per cui il peccato originale coinvolge tutti. Non l'unico. E quindi io muoio come atto di suprema obbedienza a Dio, come assunzione consapevole, volontaria, responsabile e gioiosa per certi aspetti. Sono contento, almeno, cioè, offro questa espiazione estrema. Certo, questo ha senso dentro una vita dove un pochino di espiazioni al Signore gliele abbiamo offerte, eh. Non date retta, ve l'ho già detto, a chi va dice, cianciando in giro che non serve fare queste cose da medioevo, a destra e a sinistra, che tanto nostro Signore ha già sofferto lui e quindi buonanotte. Questo è contraddetto da tutta la storia di centinaia, di migliaia di vite di santi. Come si permette chi parla in questo modo di andare a sbugiardare una schiera di santi canonizzati dalla Chiesa? Ci stanno scritte nelle biografie quello che hanno fatto. Ma tu chi sei? Ma come ti permetti? Non è che siccome sei prete o se sei vescovo tu ti puoi permettere di andare a parlare. Ma che sei matto? Chi te l'ha data questa? Cioè tu stai abusando della tua autorità, ce l'hai perché te l'ha data nostro Signore. Se c'è il sacramento dell'ordine sacro e ancora di più c'è l'episcopato, che c'è la pienezza dell'ordine sacro. Ma tu quell'autorità la devi usare a servizio del bene, non ne puoi abusare. È una cosa gravissima. Sant'Alfonso, a proposito di questo primo punto, credo di averlo detto anche questo, però ripetita iuvant, perché non mi ricordo, quindi è meglio che lo ripeto, dice: se una persona è capace di, nell'imminenza della morte, fare bene questo esercizio, cioè mettersi davanti a Dio e dire: bene, Signore mio, io ti offro volentieri la mia vita che tu mi hai donato, è giusto che io muoia. Anzi, mi vuoi fare soffrire prima della morte? L'accetto. Sapete che, per esempio, la Chiesa insegna che è lecito, evidentemente, quando si è afflitti da un male molto grave, assumere gli antidolorifici, la morfina, insomma, no? Come si chiama? Adesso non mi viene il termine specifico, le cure palliative. Però la Chiesa afferma anche che è lodevole, e quindi la Chiesa lo loda, certo non lo chiede perché questo è un eroismo, chi in tutto o in parte rinuncia, volendo offrire le sue sofferenze connesse allo stato di dolore che ordinariamente in caso di malattie gravi prima della morte ha sconto dei suoi peccati. La Chiesa non lo mica condanna chi fa così, eh? Non è che dice quello è un pazzo furioso, dagli la morfina e zitto. Non ha mai detto questo. Andate a leggere i documenti, andate a leggere il catechismo su questo. Non l'ha mai detto. Non, è evidentemente che non è obbligatorio per tutti. L'eroismo non può mai essere imposto. E con una persona che non ce la fa, cerchi un po' di conforto e di alleviamento nel dolore, non fa peccato. Ok? Ha tutta la comprensione possibile e immaginabile, ma se c'è qualcuno mosso da eroismo, da spirito eroico, che dice: no, io fino a quando ce la faccio rinuncio. E questo tanto, tanto di cappello, eh? E tanto di purgatorio risparmiato. Diciamo, io parlo sempre molto molto chiaramente, non ci faccio troppi giri, a me non mi importa niente che mi dicono che vivo nel 2022, sto ancora nel Medioevo, ma non me ne importa proprio niente. Possono stare lì fino al giorno del giudizio universale, non mi interessa. Come diceva San Paolo, il mio giudice è il Signore, lo lascio a lui giudicare quello che dico e quello che espongo. Se non gli piace a lui, me la farà pagare al suo tempo, d'accordo? Su queste cose ho qualche dubbio, insomma, perché sono abbastanza sicuro che sto dicendo cose che hanno dalla mia la testimonianza unanime, ecco, dei membri insigni della Chiesa. Oltre che come soddisfazione per il peccato, c'è un'altra cosa bella. un gesto di amore. Un gesto di amore, il gesto supremo di amore. Allora, anzitutto, cioè, c'è una dimensione agapica. Se non muoio, non potrò vivere nell'eternità. Non potrò godere di te. Ma attenzione se, qui rimando ancora a tenera amata, noi godremo di Dio, ma in un certo senso peculiare, accidentale ovviamente, che non cambia niente alla sua felicità intrinseca. Guardate che anche Dio godrà di noi, eh. Perché la mia anima, la tua anima, l'ha fatta lui. Come la tua non ce n'è nessun'altra. Se la tua manca all'appello, cioè l'anima X manca all'appello, quindi è una sfumatura tra le infinite variabili dell'Altissimo, ma che è del tutto peculiare, che manca. Teneramata spiega benissimo che gli altri beati ne soffrono. E loro fanno il tifo che più persone possibile vadano in paradiso, perché ogni nuova anima che c'è, che è un unicum, apporta delle caratteristiche, dei piaceri e dei diletti propri. Ecco perché nessuno di noi potrà fare il depresso, le cose di questo genere, ah, io non servo a niente, ah, io che razza di vita faccio, ma che dici? Se anche fosse successo che nella vita terrena, per circostanze contingenti, qui è tutto alterato, qui è tutto falsato, qui siamo sotto il potere del maledetto, del nemico, siamo pieni di peccati, di impicci vari, quindi le cose qui possono non funzionare come avrebbero dovuto. E bisogna accettarle, bisogna offrire uno spirito di penitenza, ma non andare a trascendere, perché tu l'anima ce l'hai comunque. E la cosa più importante è che la porti in paradiso quell'anima lì. Sta a vedere tutte quante le cose, ti sei realizzato, non ti sei realizzato. Queste sono cose che hanno la loro, per carità, importanza, ma non sono le cose più importanti. Quindi è un gesto, io mi dono, quindi l'accetto come espiazione dei peccati, ma te ne faccio anche un dono per iniziare a vivere nell'eternità. Sant'Alfonso, dicevo prima, insegnava: chi vive in questo modo la morte non passa per il purgatorio. Non passa. Perché? Perché sta facendo in maniera perfettissima, sapete, no? Sono più meritorie le penitenze che ci affida nostro Signore di quelle che ci scegliamo noi, anche se ce le dobbiamo scegliere, perché quelle hanno il merito dell'esercizio della nostra libertà. Cioè, non sarei tenuto e ti offro una cosa perché te la voglio offrire liberamente. Però prima si fanno quelle che ci manda nostro Signore e poi si fanno pure quelle che noi gli offriamo. E che gli vuoi offrire di più grande che accettare la morte? Che è la penitenza per antonomasia che il Signore ci ha dato come conseguenza del peccato. Quindi la morte come gesto supremo di amore, soddisfazione per il peccato è gesto supremo di amore. E poi quello che abbiamo visto. Si torna dal padre, si torna alla patria beata, si varca la soglia del cielo. Oh, è il dies natalis, deve essere così, in cui morendo si nasce alla vita. Io dico sempre, quando io dico, quando è la festa di San Pio da Pietrelcina? È il 23 di settembre. Che è successo il 23 settembre? È nato San Pio da Pietrelcina? No, non è nato. È nato il 25 maggio del 1887. È morto il 23 settembre del 1968. Quindi qual è la festa di San Pio? Il giorno della morte. Perché il giorno della morte per i santi è il giorno di festa. I martiri andavano al martirio cantando, i martiri dei primi secoli, cantando i salmi. Oh, ma quelli venivano sbranati vivi dai leoni, c'erano delle scene che altro che film dell'orrore, eh. Adesso fanno i film, le serie ultra realistiche, che se dovessero far vedere una scena di uno che viene sbranato da un leone, se lo vedi alla fiction sembra vera, ti piglia un colpo. Ma chi andava allo stadio, al Colosseo, non è che vedeva la fiction, eh. Lì i gladiatori si ammazzavano con le spade vere, non era un film, non è che dopo finita la scena te alzi e te ne vai a cambiarti in camerino, come succede nei film. Oppure i leoni non è che era una sceneggiata, qui andavano a morire cantando, cantando, cantando. Dicevano nei giorni scorsi un testo che ho letto, credo nel breviario, ma come fanno a morire cantando se tu non hai pensato tutti i giorni alla morte del Signore? E in qualche modo dici, l'hai anche desiderata, dici. E che bello che sarebbe se la morte mi rendesse un pochino simile a te. Muoio di una morte simile alla tua. Tu hai versato il sangue per me, lo verso pure io per te. Ci fa un po' paura a tutti quanti, eh? Non è, cioè. Però se il Signore ci desse la forza, quella sarebbe la morte più bella di tutti. Speriamo che ci desse la forza, io insomma. Col sangue sono un po' allergico, sono molto facilmente impressionabile, sono molto sensibile, quindi. Però di per sé sarebbe la cosa più auspicabile di tutti. Il quarto aspetto è la grazia. La morte come ritorno in patria avviene nella misura in cui lo Spirito Santo accompagna il nostro trapasso. Ma lo Spirito Santo è presente in noi attraverso la grazia, la stessa cosa dire la presenza dello Spirito Santo, dire di stare in grazia. Ed è per questo che va vissuta in questo modo. C'è la preparazione remota, cioè pensiamoci adesso, cioè una messa in più o una messa in meno, al momento della morte pesano, una confessione in più o una confessione in meno pesano. Cioè, investiamo, cioè, il mio compito è semplicemente di. Non c'è niente delle cose che sto dicendo adesso che sia obbligatorio. È obbligatorio andare a messa tutti i giorni? No. È obbligatorio confessarsi spesso? No. È obbligatorio pregare tanto? No. È obbligatorio fare penitenza? No. Ma se non le fai, non arrivi alla morte e all'incontro con Dio come chi ha fatto tutte quante queste cose. Questo togliamocelo dalla testa. Perché si muore come si è vissuti. Quello che si fa si ritrova. Il Signore segna tutto nel suo libro, tutto. Tutto. E quello che gli abbiamo dato ce lo dà in cambio, ce l'ha dato Gesù nel Vangelo. Con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio. Quanto gli hai dato di te stesso al Signore, tanto Lui ti darà al momento dell'incontro con Lui. Ed è sacrosantissimamente giustissimo che sia così. Un'altra cosa importante, noi abbiamo degli alleati. Al momento della morte, insegnano i maestri di spirito. Arrivano i diavoli a cercare di fare gli ultimi assalti per strappare quell'anima al Signore. Oh, noi abbiamo anzitutto il rosario e la Madonna, la bellissima supplica alla Madonna di Pompei, fatta da poco. Si muore con il rosario in mano, stretto tra le dita, ma soprattutto con i nomi di Gesù e di Maria sui cuori, nei cuori e sulle labbra. Con quelli i diavoli scappano. Ma poi abbiamo anche l'angelo custode. Da invocare. Quest'anno purtroppo, amici, la festa degli angeli custodi è capitata il 2. Io ho recuperato il 3 come messa votiva per parlarne un po'. L'angelo custode è importantissimo per il momento della nostra morte, anche perché sarà lui a prendere per mano la nostra persona e dire donnamo quando siamo morti, che fine facciamo? Ci porta l'angelo custode, certamente con i tempi che sono fulminei, cioè usciti dalla dimensione dello spazio-tempo segnato dal ritmo del secondo, i tempi schizzano a velocità supersoniche, rimando sempre a tenera amata per chi volesse approfondire, quindi è un attimo che ti trovi dinanzi a Dio e che c'è il giudizio particolare, poi lo vedremo. Però comunque l'angelo custode ha questo ministero di presentarci al cospetto del giudizio del Signore dopo che ci ha custodito speriamo senza mettersi troppe mani davanti agli occhi, per una vita. Speriamo che ci credano tutti agli angeli custodi, che li preghino. Bisogna pregarli bene e spesso gli angeli custodi. Poi, perché tutto questo sia vero, la morte è cosa a cui ci si deve preparare. Noi diciamo nell'Ave Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Una preghiera molto in auge un tempo era salvaci dalla morte improvvisa. Voi pensate un po' i segni dei tempi, no? Se qualcuno viene a dire, oh, lo sai a quello, l'altro giorno dormiva, gli ha preso un infarto, se ne è manco accorto e se n'è andato. Beato lui, tutti quanti dicono, no? Ma tu sei sicuro che è beato lui? Certo, si è fatto una vita santissima. Sarà fatta la comunione la sera stessa, si era confessato il giorno prima, aveva riparato tutti quanti i guai, beh, potrebbe pure essere una grazia, ma ordinariamente non lo è. La morte improvvisa non è una grazia, ordinaria, è una disgrazia, perché non ti consente di prepararti, né di poter vivere tutte queste cose che stiamo dicendo. Di la morte come atto consapevole, come atto di offerta, come gesto di espiazione, come concretizzazione di un desiderio percepito di una vita, per una vita di voler tornare alla casa del Padre. Oh, insieme all'angelo custode Maria Santissima, poi c'è un patrono della buona morte. Chi è? È San Giuseppe, no? Anche qui consigli per gli acquisti, c'è un ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe, dove ce n'è proprio una che parla di San Giuseppe che è patrono della buona morte. Perché il patrono della buona morte? Per un motivo molto semplice, perché la tradizione, evidentemente più che attendibile, ci ha tramandato che San Giuseppe fosse morto prima che Gesù cominciasse la vita pubblica. E quindi questo santissimo uomo, come si meritava per la sua straordinaria santità, ha avuto il dono inestimabile di morire tra le braccia di Gesù e di Maria, insomma, non mi sembra tanto poco. E quindi per questo è considerato, nominato honoris causa proprio per questo suo grande privilegio, patrono della buona morte. Ma anche qui non limitiamoci a pregare il beato Giuseppe soltanto al momento della morte, no? Qui, mese di marzo, i mercoledì. Non dico di fare le mille Ave Giuseppe come qualche pazzoide, insomma, che si cimenta in questo gesto ascetico veramente impressionante. Però, a te, beato Giuseppe, io da quando sto a Sermoneta, siccome San Giuseppe è patrono di Sermoneta, ho proposto ai fedeli, che ancora non mi hanno ammazzato, insomma, di recitarla tutti i giorni al termine della Santa Messa, dopo la preghiera alla Madonna e a San Michele Arcangelo, ma è una cosa molto molto bella, a te o beato Giuseppe è una preghiera indulgenziata, egli ancora detta in latina, a te beate Iosef in tribolazione nostra confugimus, atque implorato sponse tue santissime auxilia patrocino quo fidente ex postimus, quindi vabbè, però va bene anche in italiano, una bellissima preghiera a San Giuseppe, un po' lunghetta, non è breve come l'angelo di Dio, però tempo dedicato alla preghiera è sempre tempo santo. Non aspettiamo la morte per invocare il patrono della buona morte, però, soprattutto al momento della morte, invochiamolo. Detto tutto questo, quindi detto tutto questo, è chiaro che adesso non è che uno fa il fanatico. La morte mantiene una valenza di per sé, l'abbiamo già visto, non positiva. Non ci sarebbe dovuta stare. La morte è anche distruzione e mortificazione della persona. Cioè il fatto che il nostro corpo diventi poi un cadavere, cibo per i vermi, per essere molto diretti e prosaici, poco prosaici, non è proprio il top. Sapete che Gesù ha pianto sulla tomba di Lazzaro. Gesù non faceva cose insensate, no? Non ha pianto sulla tomba di Lazzaro perché era morto l'amico suo, cioè, per carità, Gesù voleva molto bene a Lazzaro e Lazzaro è stato il suo miglior amico. Gesù ha voluto vivere questa dimensione, no? Dell'amicizia. Io auguro a tutti di trovare uno o più amici. L'amicizia è una cosa meravigliosa, una cosa bellissima, stupenda, quando è vera. Ci salvi il Signore dalle delusioni ricevute dagli amici, insomma, che purtroppo possono esistere e fanno parte di quelle grandi pene spirituali, più grandi di quelle materiali, che se il Signore ce le manda le accogliamo con amore e gliele offriamo. Ecco, era un grande amico, certamente Lazzaro di Gesù, ma Gesù, questo si vede benissimo negli scritti di Maria Valtorta, non stava semplicemente piangendo così banalmente, anche se per carità, la morte del suo migliore amico, ma il contemplare da dentro la natura umana, forse anche pensando alla sua prossima morte, questo orrore. La morte è comunque l'estrema conseguenza del peccato. E Dio non può, come dire, tollerare, non gli piace il peccato e quindi non gli piace l'effetto prodotto dal peccato, perché la morte è questo, è l'effetto prodotto dal peccato. E quindi Gesù ha pianto. La morte deve essere distrutta. Gesù l'ha già distrutta la morte, l'ha vinta la morte. Noi ancora no, ma Gesù sì. L'ultimo nemico ad essere annientato, si legge nella lettera ai Corinzi prima, sarà la morte. Non ci sarà più morte né lamento né pianto nella Gerusalemme celeste, si dice il libro dell'Apocalisse, no? Quindi, questo per dire che la morte contiene. Possiede comunque una valenza negativa. È redente ed è trasformata nella vita di un cristiano, quindi fondamentalmente in un anelito per un ritorno in patria. Però sarebbe stato meglio ritornare in patria come ci è tornata la Madonna, quindi passando attraverso un sonno estatico che poi ti svegli e stai in paradiso. Era meglio, no? Quindi molto meglio. Oh, attenzione. Che il Catechismo della Chiesa Cattolica, forse sarebbe il caso di andarlo proprio a leggere così prima di chiudere, forse è meglio andarlo un po' a vedere, nel 1113 parla esplicitamente della reincarnazione, che ahimè adesso va molto di moda, disgraziatissimamente. Ecco, anche dove non dovrebbe andare di moda, nel 1013, non 1113, scusate che ho sbagliato la citazione, no? L'incarnazione non esiste, è dottrina eretica condannata dalla Chiesa senza appello. La morte, si legge nel 1013, del Catechismo della Chiesa Cattolica, cito, è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo, è la fine del tempo della grazia e della misericordia che Dio gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo. Attenzione, è bellissimo questo numero. Quando è finito l'unico corso della nostra vita terrena, unico corso della nostra vita terrena, e qui c'è una citazione del Concilio Vaticano II, della Lumen Gentium, noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene. Si legge nella lettera agli ebrei, è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta. È stabilito, è scritto. Quindi non c'è nessuna reincarnazione dopo la morte. Chi professa la reincarnazione dopo la morte è fuori della comunione con la Chiesa. C'è una sola vita terrena, c'è la morte corporale e c'è la risurrezione della carne. Stop. Questa è la nostra fede, questa Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Bene, possiamo certamente chiudere, che ora, la prossima volta, Dio piacendo, cominceremo a parlare del giudizio particolare. Quindi, cosa accade e cosa avviene immediatamente, istantaneamente, meglio, dopo la morte. Alla prossima, amici cari, la mia benedizione. Che Dio vi benedica e la Madonna. La Vergine Santissima sempre vi protegga.